Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una Panda del 1983. Una scatola di latta color beige con dei sedili che somigliavano a una sdraio. Perfetta per andare a fare la spesa o in camporella, ma non certamente per i 400 km al giorno del mio nuovo lavoro, l'agente di commercio. Oggi, questa mattina, Yahoo.it ha segnalato quali sono le tre parole più ricercate nel suo motore di ricerca di quest'anno. Sono meteo, Facebook e calciomercato. Ma da oggi, da questo fine settimana, la parola più ricercata sarà agenti.it. Buongiorno a tutti, benvenuti alla fiera degli agenti di commercio. Che sembra un paradosso, immagino. Cioè, quando mi hanno detto che saremmo venuti alla fiera degli agenti di commercio, a me faceva strano il fatto di immaginarci in un luogo dove ci sono delle persone che di solito sono in viaggio. Quanti sono tra quelli presenti adesso nel teatro agenti.it o, se vogliamo, arena agenti.it? Tra di voi quanti sono agenti di commercio? Ok, giustamente quasi tutti. Gli altri che ci fanno qua, invece? Sono qua per vedere me. Siete venuti apposta! Ma siete fantastici. Anche lei, signora. Quindi lei non è un agente di commercio. Siete venuti su Facebook, siamo amici su Facebook. C'è la famosa amicizia su Facebook, per cui ovviamente non sappiamo chi sono vicendevolmente. Niente, la signora passerà tutto il giorno con l'iPad in mano cercando di riprendere una diretta che tra l'altro è in streaming e sarà in podcast. Oggi raccontiamo una cosa che capita. Scusate, innanzitutto vorrei salutare quel signore. Per chi non lo vedesse, c'è un signore vestito da Superman di agenti.it. Potete dargli un attimo il microfono? Perché io credevo che fosse un pazzo entrato di straforo, e invece no. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, aia, temo che non lascerà mai più il microfono adesso no, dato. No, assolutamente. Ci dici come ti chiami? Io mi chiamo capitanagenti.it e sono il capitano di tutti gli agenti presenti qui in fiera, perché oggi essere agenti vuol dire essere supereroi, perché per vendere bisogna essere supereroi, perché chi compra? Per cui un applauso a Superman. A tutti. È vestito il nostro supereroe. Grazie mille. È vestito come carnevale, ma noi ha una credibilità che chiaramente è scesa immediatamente. Sei un agente di commercio, ovviamente. No. Fai altro. Fai l'attore. Certo, scemo io a non immaginarlo. Quale agente di commercio l'avrebbe fatto? Prima chiedevo a un ragazzo che lavora qua, dicevo, ma quanto l'agente di commercio vende per le competenze, la sua capacità, e quanto invece per la capacità, diciamo, nei rapporti umani? Quanto è il rapporto? 50-50? Alcuni mi dicevano un po' di più, 70-30. Sostanzialmente io quindi mi immagino questa come una fiera di simpaticoni, cioè una fiera piena di brillantoni che sappiano raccontare barzellette. Com'è che ci si approccia? Se c'è il microfono, Isotta, scusami, ti ringrazio. Com'è che ci si approccia a un cliente che non si conosce? Cioè, quando si va da uno per la prima volta, lei che vedo che è attentissimo, posso darti del tu, scusami. Cioè, l'agente di commercio va, si presenta e spara una barzelletta subito oppure verso la fine? No, la spara più o meno dopo il prezzo. Ah, ok. Quindi prima dice quanto viene la roba e poi spara il prezzo. Oggi raccontiamo una storia, che è la storia di Ottavio, che è qui presente ovviamente e più tardi salirà sul palco con me, che racconta, è un po' come una sorta di mito fondante dell'agente di commercio, ma anche di mito fondante di tutti coloro che fanno un lavoro per il quale sono in automobile. Vediamo, facciamo una gara velocemente. Quanti chilometri avete fatto quest'anno? Chi ha fatto più chilometri da gennaio ad oggi? 50.000? 60.000? 70.000? Qualcuno che ha fatto 70? 70.000? 71, 72, 73. Il signore che non è un agente di commercio. Ok, si fanno un sacco di chilometri, mi sembra di capire. Nel senso che la vostra giornata di lavoro la passate per quanto? Per un quarto del tempo in automobile? Metà? Di più? Cioè, su 8 ore di lavoro, 6 le fate in macchina? No. No, 4 però. 4? 4, sì. Ok, perfetto. Quindi, tutto a posto. È solo nella mia orecchia questo fischio, è andato, benissimo. Siamo sempre in diretta dalla fiera degli agenti di commercio, sono le 16:13 minuti. Dicevo, questo è un racconto che parla di quella cosa lì, di quando uno è un ragazzo, ce lo racconta Ottavio che poi verrà al microfono, è un ragazzo e comincia a fare un lavoro come questo, in cui deve viaggiare un sacco di tempo, cioè deve stare in macchina tantissimi giorni. Si piglia la macchina che può pigliarsi coi soldi che ha e capita dei giorni che faccia molto caldo, che tu abbia in macchina dei prodotti che probabilmente sono anche nocivi, lo possiamo dire, per certi versi, e comunque fai quel mestiere lì e quindi tiri dritto. Una Panda del 1983, dicevo, una scatola di latta color beige con dei sedili progettati da Giorgetto Giugiaro che somigliavano a una sdraio. Perfetta per andare a far la spesa o in camporella con la ragazza, ma non certamente per fare 400 km al giorno e 15 visite programmate. Però quella era l'unica auto che avevo potuto permettermi con quei soldi che avevo da parte e con una serie di rate che speravo di riuscire a pagare. Ero l'unico della ditta che girava con quell'auto. La parola ditta è una parola chiave, guarda. Ma ero anche l'unico che non aveva mai fatto l'agente di commercio. Mi avevano preso l'anno prima, dopo che il mio predecessore aveva mollato a giugno baracca e burattini. Con la Panda beige giravo per le stradine della Bassa Pavese in un luglio che passò alla storia per le temperature torride. Ok, quindi siamo nella campagna pavese, abbiamo 20 anni, fa un gran caldo e abbiamo una Panda. Oltre che essere scomoda, la Panda aveva la simpatica attitudine di scaldarsi e rendere incandescente l'atmosfera dentro l'auto. In più, se giri con dei campioni di solventi nel bagagliaio, perché il principale, il signor Ferrari, non quello delle auto da corsa, sosteneva che quello che provi, vendi. Insomma, se giri con dei solventi nell'auto, dopo un po', fra il caldo e l'odore dell'acquaragia, ti sembra che su quella sdraio su cui sei seduto sia in riva al mare. Insomma, sostanzialmente Ottavio è completamente fatto dai vapori dell'acquaragia. Prima di scoprire che l'acqua in cui rischiavo di finire non era quella della spiaggia di Tropea, ma del canale di irrigazione al lato della strada, decisi di fermarmi. Aprii tutti i finestrini nella speranza che l'odore di solvente si diluisse in quella calura umida. Ero in mezzo a non so dove, sperando di trovarmi sulla strada giusta per Robbio Lomellina. Intorno erano per lo più risaie e pioppeti, e neanche l'ombra di una cascina. Improvvisamente, davanti a me, disegnato nell'aria, un arcobaleno che sembrava fratello del miraggio del mare. In realtà non avevo avvertito, nascosto da un raro campo di grano turco, un irrigatore che tentava di spezzare quella siccità e salvare il raccolto. Avvicinandomi a piedi si percepiva la leggera frescura che derivava dall'acqua che evaporava nell'aria. Quando fui vicino all'irrigatore automatico, la magia dell'arcobaleno si era ormai dissolta e si sentiva solo il battito sordo del motore diesel e la puzza di gasolio. Ancora odore di idrocarburi, incubo di quella giornata. Però ero troppo concentrato su un'altra cosa che stavo vedendo e che conteneva un progetto folle. Il percorso dell'acqua finiva oltre il campo per un piccolo tratto sul viottolo che divideva il Gran Turco da un pioppeto. Un paio di metri, non di più. Non so se più il caldo o l'esigenza che hai a 20 anni di fare ogni tanto una follia per sentirti vivo e anarchico. La Panda, fra i mille difetti, aveva un gran pregio. Aveva le ruote e il pianale alto. Ritornai all'auto, mi sedetti sul sedile posteriore e mi spogliai, lasciando lì i vestiti. Poi, in mutande, ritornai al posto di guida. Quindi la scena è questo qua: c'è un uomo in campagna con una Panda, fa un gran caldo e lui è in mutande e la sta guidando. Ingranai la prima, mi infilai nel viottolo fino al punto lambito dall'acqua, aspettai di vedere allontanare il getto, poi parcheggiai l'auto perché anche lei venisse in parte raggiunta da quella cascata, e protetto dalla sua presenza scesi indossando mutande e un paio di stivali che tenevo nel baule per le emergenze, che non si sa mai, la gente di commercio può finire ovunque. Quando l'acqua mi investì, l'unico rumore che sentii fu il ticchettio delle gocce sulla lamiera della Panda. L'altro rumore che non sentii per quegli interminabili secondi fu il battito del mio cuore, arrestato da quella sferzata gelida che mi colpì senza ritegno. La differenza fra una cascata fredda e una cascata gelida sono tutta una serie di «mio Dio, mio Dio, mio Dio» che giureresti di aver gridato ma che non sono mai uscite dalla tua bocca in realtà. La frescura che avevamo accumulato nell'auto, io e lei, fu sufficiente per un ritorno meno afoso. Quello che non avevo calcolato era il vecchio lenzuolo colorato, quello con cui coprivo il campionato dei solventi nel baule e che usai per asciugarmi. Ecco, quello era intriso dei vapori di quei solventi. Feci tutto il viaggio con quella puzza addosso. Maledetto il signor Ferrari e il suo motto: quello che provi, vendi. Chemicals will hit you. Chemicals will knock you down. Is it over 'cause you feel no pain? Throwing me around. You attack my head with numbers. You attack my room with things of glass. You attack my neighbors till you found someone who's cleaning up the mess. Chemicals will hit you. Chemicals will knock you down. Is it? Attack my head with numbers. You attack my face. Le 16:20 minuti sull'orologio di Davide Ciocia, che quando lo leggo vuol dire che siamo in esterna, giusto Davide? Altrimenti non, di fatto non avremmo un orologio se non ci fossi tu, questo orologio orribile della, cos'è, Oregon Scientific, giusto per non fare nomi. Sono le 16:20, siamo in diretta dalla Fiera di Milano, la Fiera degli Agenti di Commercio, sono tutti qui davanti, che tra l'altro a quest'ora voi di solito sareste a lavorare, giusto? E quindi oggi siete qua perché state lavorando anche oggi sostanzialmente. La signora con l'iPad è immancabile, le facciamo una foto e lo mettiamo su Facebook, vi prego. Io la signora, no, non possiamo, non si è messa anche gli occhiali da sole perché ha paura di essere riconosciuta, ma soprattutto a fianco a me Ottavio. Buongiorno Ottavio. Ciao. Ottavio è il protagonista, oltre che autore della storia. Certo. Devo starmi un po' lontano, se no ci entrano i microfoni. Paolino dice, chi se ne frega. Ottavio, la prima domanda è, quella Panda là, quando l'abbiamo venduta, quanti chilometri aveva? 110.000. Quante auto vendi? Hai venduto nella tua vita? Cioè di seconda mano, chiaramente fregando il tizio, ma no, guarda, l'ho usata poco, sì, l'ho sì, sempre tenuta in garage. Non ha fatto pochi chilometri. Esatto. Cioè quelli che ho fatto comunque sono tenuti bene, sì, sono tutti fatti quello in quello con Piacenza, poi dell'amico che generalmente ha un'agenzia, si può anche... Che vende auto, certo. Tira indietro i chilometri. No. Lui. Quante ne hai vendute? 5, 6, sì, 7? 5. Adesso che macchina hai? Adesso ho una Chevrolet. Ok, come va? Benissimo. Quanti chilometri fai all'anno? Questa roba dei chilometri mi eccita tantissimo, questa cosa dei chilometri, cioè che fate un numero che io manco nella mia vita. Però, come ti dicevo prima, per certi periodi della mia vita anche 70.000 in un anno. 70.000 in un anno. Sì, sì. Diciamo che al momento è il record del signore là in fondo, mi pare, 70.000. Io, siccome non ne so nulla, prima ti chiedevo esattamente che cosa fa uno che fa il tuo cioè il vostro mestiere. La prima risposta che mi hai dato, che mi ha stupito, ma solo perché sono un ignorante ovviamente, è che di fatto sei un imprenditore, cioè sei un libero professionista. Noi siamo tutti liberi professionisti. Quindi puoi essere gentilmente, come dire, accompagnato alla porta quando... Questo è purtroppo, voglio dire, il brutto di questo mestiere, che non abbiamo in un certo senso molte delle tutele, voglio dire, che normalmente ha una persona alle dipendenze, con oneri che sono molto superiori. Tu racconti barzellette? Raramente. Quindi non è vero che bisogna essere dei simpaticoni? Beh, insomma, bisogna avere quella giusta ironia per affrontare la vita tutti i giorni, non necessariamente bisogna raccontare barzellette. Cosa hai venduto ieri? Prodotti per la detergenza. Giusto, perché tu ti occupi di prodotti per la detergenza. Sì. E una cosa che volevo capire però è che uno che fa quello che fai tu può poi vendere qualsiasi altra cosa, oppure uno è specializzato e fa quello? Beh no, generalmente uno cerca, voglio dire, di rimanere in un range, voglio dire, di prodotti che conosce, che può spiegare. Detergenza a nastro, quindi, cioè pulitura sì, di qualsiasi roba. Beh, diciamo che poi il trattamento delle superfici può andare, voglio dire... Il trattamento delle superfici, sono i termini tecnici che voglio sentire. Il trattamento delle superfici va da un detergente... Può andare dalla scrivania a un pezzo meccanico, quindi... Tipo? Tipo un pistone di una macchina. Un pistone di una macchina, o che so, il carrello di un aeroplano. Tutto quello che... Tutta la detergenza, diciamo, noi nella detergenza siamo coperti. Sì, abbastanza. E come va il settore della detergenza? Direi che in generale non va tanto bene per nessuno, ecco, non credo. Vabbè, ma quanti ragazzi giovani si mettono a fare l'agente di commercio? Tanti, tanti. Diciamo che è ancora, voglio dire, una forma con cui molti, voglio dire, giovani si inseriscono nel mondo del lavoro provando, voglio dire, a fare questa professione. Provano a fare questa professione perché molte volte, voglio dire, le aziende che li assumono li lanciano un pochettino senza tutele, senza professionalità sul mercato stesso. Qual è l'incontro più assurdo che hai fatto con il tuo lavoro? Cioè tu ovviamente, voi tutti fate una marea di chilometri in macchina, quindi state per strada, vi succedono robe in strada, immagino quello che succede quando uno viaggia tantissimo, e in più incontri tante persone. Sì, sì. No, beh, generalmente sono... Ho mal disposte perché hanno la luna storta quel giorno e tu ne fai, voglio dire, purtroppo le spese, ma generalmente, voglio dire, le persone sono abbastanza disposte, voglio dire, ad ascoltare. Ma tu hai mai mandato a quel paese un cliente? Cioè, sì, proprio... sì. Sì. Sì, sì. Cioè proprio sì, sì, sbattendo la porta? Sì, sì, lui mi ha detto, si dimentichi di me, gli ho detto, no, sono io che le dico che la mia faccia lei se la dimentichi. E ti trovate avanti mezz'ora, no sei tu che te lo dimentichi, no, no, sei, no, tu, no, no, sei tu, no sei tu, no, ed è finita. Sì, sì, ed sì, era sì. Cos'era, un bar, un ristorante? No, era un'azienda meccanica. Ah, quindi detergenza di pezzi meccanici. Di pezzi meccanici, perfetto. E invece il miglior cliente che hai è, di, Ti è mai capitato di diventare amico di un tuo cliente? Cioè sì, che ci esci con sì, la famiglia, ce l'hai sì, una, c'hai una straccia di famiglia? Sì, benissimo. Sono riuscito a farlo. Ok, perché anche questo immagino sia dopo complicato. Dopo che ho smesso di girare nudi per Zuckerberg. Speravo fosse stato questo episodio in realtà, farti conoscere qualcuno. No, diciamo che se avessi incontrato qualcuno quel giorno lì forse non avrei avuto tante opportunità di farmi una famiglia. Cosa avresti fatto se non avessi fatto l'agente di commercio? Mi sarebbe potuto fare il sindacalista. Il sindacalista. Attenzione, questo forse non è il luogo adatto per parlarne. Mi sa che dobbiamo salutarti, Ottavio. Sto scherzando. Quanto ti manca la pensione? Beh, abbastanza. Abbastanza quanto? Tu quanti anni hai? Io ho 57 anni. Ma ne dimostri... 58. 50... No, ne dimostri un po' di meno. Scusa, 10 anni? Eh sì, più o meno sì. E la pensione degli agenti di commercio... Non tocchiamo questo argomento. Guarda le facce qui. C'è gente che fa la conchetta con la mano e la muove nell'aria, sì, come sì, a dire, esatto, a voglia. C'è tra l'altro presente un nostro fedele ascoltatore e narratore, anche ci ha mandato due storie che salutiamo. Ottavio, io ti ringrazio, abbiamo praticamente già finito come al solito. Io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci mandato questa storia. Dimmi dove vai, no, domani è sabato. Domani non si lavora, sabato o la domenica? Domani no. Ok, però domenica tu che c'hai? Mattina sì. Domenica mattina sì? Perché c'è una fiera di settore a Piacenza e io sono in... Ma questa non è l'unica fiera degli agenti di commercio al mondo? O in Italia quantomeno? Ma le fiere di settore ci sono. Ah, ok, di settore della detergenza. Ma bravo. Perdonami. E quindi lì... sono purtroppo... Detergenti completo, come se piovessero. Assolutamente. Tu viaggi con in macchina al campionario? In questo momento sì. Sì. E lo provi anche? Certo. Davvero, spruzzi la roba e dici guardi, sì, ma fai anche la comparazione con altri prodotti? Guardi, generalmente quelli della concorrenza sono sempre peggiori. Quello chiaro, certo, però ti porti dietro i prodotti della concorrenza, sì, sì, e fai la prova. No, della concorrenza no. No, no, io dicevo proprio, ti porti un altro e dici guardi questo fa schifo, sì, questo sì, il mio invece è fantastico. Assolutamente sì. Ok, perché quello che provi vendi. Ma scusa, quello che provi vendi era un motto che lui usava? Sì, sì. È stata la prima cosa che mi hanno insegnato quando ho cominciato a fare la gente e credo che tuttora sia una cosa molto valida. Ottavio, grazie mille, grazie, in bocca al lupo per tutto, ciao, grazie. C'è qualcuno che ha qualche motto che gli è stato tramandato da un agente, da un collega? Sì, c'è qualcuno che ce l'ha, guarda Isotta, quel signore che si mette a posto la cravatta lì in seconda fila. No, non è neanche un agente di commercio? Sì. Ah, ok, cosa vende? Ferramenta, utensileria, giardinaggio. Fantastico, ma si porta a casa della roba? Cioè, voglio dire... Qualche campione? Esatto. E quando capita... Cioè, si sviluppa una forma di perversione nei confronti di quello che si vende? Ma no, non esageratamente. Posso sapere cosa vende il signore di fianco a lei? Pubblicità. No, qui c'è un calo immediato della tensione. E vengo da Radio 24. Ah, ok, siamo in casa. Cioè, un ragazzo più giovane degli altri, quanti anni hai? Ragazzi, insomma, via, 39. Vabbè, insomma, ragazzi, la nostra età in Italia siamo ragazzi. Cosa vendi? Inserti per la filettatura. Benissimo. Robe che non so assolutamente cosa siano. Per tutto me... ciò che si avvita, tutto ciò che si avvita. Tutto ciò che si avvita. Cioè, tu vai in giro e dici, ragazzi, se avete bisogno di qualcosa che si avviti, io sono qui. C'è una signora con dei capelli rossi, non fa l'agente di commercio. No, mi dice cosa fa, signora, lei, nella vita. Ero insegnante elementare. E adesso cosa fa qua ad agenti.it? Così. Per curiosità volevo vedere, sentire. Ma hai in mente di intraprendere la carriera? È in pensione lei, signora? Ormai basta. Quanti allievi ha avuto nella Ho sua dato. Vita? 34-35 all'anno. All'anno. Lei conta gli allievi come loro contano i chilometri in automobile. È una gara che probabilmente potrebbe anche vincere. Mi sa che abbiamo quasi finito. Io ringrazio ancora Ottavio che ci ha mandato la storia, la signora che mi ha quasi angosciato con questo iPad arancione davanti agli occhi, tutti quelli che sono qui e sono rimasti a ascoltarsi la puntata. Oscar Giannino fa finta di niente, ma tra poco in onda lui. Grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a tutti quanti quelli che sono lì, a Isotta che è qui con noi. In bocca al lupo per tutto, buon lavoro. Ho detto buon lavoro come Gagliani la prima volta nella mia vita, ma forse oggi è l'unico giorno per citare Gagliani, il giorno giusto. A presto, noi siamo in onda ancora lunedì, grazie a Ottavio. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Marco, vivo a Milano. La storia di lunedì è la mia e parla di una passione per la cucina riaccesa dopo molti anni. Siete qui.